Il ciabattino e il banchiere, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Da mani a sera, allegro, un ciabattino canterellava, che era un gusto matto a vederlo, a sentir. Un canarino non canta meglio, e il cuore soddisfatto era il re dei sapienti, il ciabattino. Il suo vicin di contro, un epulone, grande banchiere ed imbottito d'oro, di cantar non avea mai la ragione, e poco anche dormiva sul mattino, quando già canticchiava il ciabattino. Il nabab non faceva che deplorare e querelarsi in collera col fato che il sonno non è fatto di tal stoffa che si possa comprare sul mercato, come si compra il bere ed il mangiare. Al suo palagio un dì fatto venire la giusta scarpe. «O mio compar Crispino», gli domandò, «non mi sapreste dire quanto voi guadagnate in capo all'anno?» «In capo all'anno», disse il ciabattino. «A fede dina», aggiunse indi ridendo, «non so contar su questo calendario. Io cucio i giorni miei per ordinario, uno per uno, un pane e un bicchierino, quando ce n'è», rispose il ciabattino. «Ebben, ditemi almen quanto per dì tirate dal lavor. Cara eccellenza, or meno, or più, ed or così così». Tanto si vive e si vivrebbe meglio se non ci fosse qualche intermittenza. Ma il male è delle feste che son troppe, in cui tu devi andar disoccupato. L'una fa buio all'altra. E un altro guaio, in quanto ai santi, egli è che il sor curato ne trova sempre uno sul solaio. Rise il banchier della bontà dell'uomo, e credendo di metterlo sul trono, «Prendete», disse, 100 scudi, e ai vostri bisogni provvedete. Io ve li dono, custoditeli bene, o galantuomo». 100 scudi? Credette il ciabattino di possedere una montagna d'oro. Torna a casa e in un angolo del muro seppellì la sua pace col tesoro. Da quel dì più non canta il ciabattino. Da quel dì che nasconde in casa il seme di tutti i mali o dolci sonni a Dio. Sempre in agguato, sempre i ladri e i teme la notte, il dì. Se un topo dirgli pare, è il suo tesoro che viene a rosicchiare. Ritorna al fine da sua signoria, che un dì solea svegliar presso al mattino, e... «I 100 scudi le restituisco, lei mi torni il mio sonno e l'allegria», dice, e s'inchina il nostro ciabattino. Fine della favola, il ciabattino e il banchiere. Questa registrazione è di dominio pubblico.